Io in realtà sono stata ad Haiti la scorsa estate per vacanza e ho visto un po' una realtà che mi ha colpita. E quindi sono stata ben lieta di accettare la sfida della Fondazione Francesca Rava e PH Italia per portare il judo qui, quindi la mia passione, il mio lavoro, la mia vita. E sicuramente ci metterò tutta me stessa, come fa Padre Nick qua già da diverso tempo. E a mia volta io vorrei lanciare un appello che ognuno di noi possa comunque accettare una sfida personale, quindi di salvare un bambino adottando la distanza, come sicuramente farò io al mio rientro.